Torniamo a Don Vianney, che ormai ci tiene impegnati, come ho detto, da quasi 3 anni. E stiamo parlando, come ricorderete, dei fatti mistici della vita del curato d'Ars. Abbiamo detto che il curato d'Ars viveva sicuramente la vita mistica, anche se lui se ne guardava bene dal rivelarlo, anzi cercava il più possibile di tenerlo nascosto. Per cui, quanto si sa, naturalmente non si sa da lui, ma da altri che si sono accorti di questi fatti che avvenivano e che ne sono stati involontari testimoni. Come quando, per esempio, durante le confessioni il santo diventava luminoso e appariva trasfigurato e rimaneva così magari per molto tempo, non dando più retta, almeno apparentemente, a chi stava confessandosi, anche se poi costui o costei comprendevano che in effetti il santo non aveva mancato al suo dovere e aveva presenti anche i particolari della confessione. Ma soprattutto si racconta che, specie durante la messa, il nostro santo aveva delle esperienze mistiche, vero? E come sapete, una volta la cuciniera dell'orfanotrofio udì involontariamente da lui una certa frase assai rivelatrice a questo proposito, quando disse, credendosi solo in cucina, quando disse: insomma, è da domenica che non vedo più il buon Dio. E ora, come ricorderete, la cuciniera osa intervenire uscendo dal suo nascondimento e dice: prima di domenica dunque lo vedevate? Al che il santo, alquanto imbarazzato di essere stato scoperto, non risponde nulla. E ricorderete che c'è anche un'altra frase rivelatrice a questo proposito. Quando disse, durante la messa, quando si prega il Signore per i poveri peccatori, egli manda ad essi raggi di luce, perché scoprono le proprie miserie e si convertano. Ecco, questa frase ci dimostra come il nostro santo durante la messa quasi vedesse i frutti della preghiera fatta per i peccatori, quasi vedesse scendere questa luce divina sulle persone per le quali era stata invocata. Adesso facciamo una piccola pausa e poi iniziamo la parte vera di oggi. Comunque, carissimi, continuiamo la storia là dove l'abbiamo interrotta. E cominciamo a dire che solo lui, solo il curato ci avrebbe potuto raccontare le meraviglie che contemplava in quei momenti di estasi, vero? Ma invece ha sempre taciuto, se ne è guardato bene. Fortunatamente in due o tre casi vi furono altre anime, altre persone che assistettero alle sue visioni e che poi ne hanno fatto fede. In questo modo abbiamo potuto avere i particolari precisi e circostanziati di almeno un'apparizione. Attenti, la mattina dell'8 maggio del 48 giungeva ad Ars una ragazza intelligente, prudente e degna di ogni fiducia di nome Stefanina, la quale aveva anche raccolto elemosine per le opere di Don Vianney. Dopo aver fatto colazione all'orfanotrofio e volendo consegnare personalmente al curato la discreta somma raccolta, si recò da lui. Ed ecco come lei stessa descrive la visita. Dice: mi presentai all'1 del pomeriggio. Il curato si trovava solo nella sua camera. Ricevuto da Caterina, che mi introdusse nella canonica, stavo per salire le scale che conducono alla sua camera. Quando sentii parlare, pensai che ci fosse qualcuno con lui. Proseguii ugualmente con precauzione. Fermatami ad ascoltare, intesi una voce dolce, una voce femminile, che gli chiedeva: «Cosa avete da domandare?» Risposta: mia buona madre, vi domando la conversione dei peccatori, la consolazione degli afflitti, il sollievo dei malati, soprattutto di una persona che soffre da molto tempo e che domanda la guarigione o la morte. Attenti, la testimone dice, udì anche la risposta della Madonna evidentemente, che fu questa, guarirà ma più tardi. A queste parole continua Stefanina, entrai d'improvviso nella camera, convinta che si parlasse di me che soffrivo di cancro. Con sorpresa vidi in piedi davanti al camino una signora di media statura, che indossava una veste di meraviglioso candore, ingemmata di rose d'oro. Indossava scarpe come la neve, e nelle sue dita brillavano splendidi diamanti. Aveva la fronte coronata di stelle splendenti come il sole. Ne fui abbagliata. E quando potei contemplare di nuovo la visione, la vidi sorridermi dolcemente. Con coraggio le dissi, mia buona madre, conducetemi con voi in cielo. Risposta, più tardi. No, adesso, madre mia. Al che la Madonna si limita a rispondere, voi sarete sempre la mia figlia e io sarò sempre la vostra madre. E pronunciate queste parole, disparve. Rimasi un momento perplessa, stupita del favore che mi era stato concesso. Pensavo che dopo aver visto cose tanto belle avrei dovuto dimostrare con la mia vita la mia riconoscenza. Rientrata in me stessa, vidi Don Vianney in piedi davanti alla sua tavola con le mani giunte, il viso splendente e lo sguardo immobile. Tremai al pensiero che fosse morto. Mi avvicinai a lui e lo scossi, tirandolo per la veste. «Mio Dio, chi siete?» dice il curato alla ragazza. «Padre, sono io!» E dice la fortunata testimone che queste parole lo riportarono in sé. Allora Stefanina chiede, «Dove eravate, padre? E che cosa avete visto?» «Ho visto una signora.» «Anch'io», risposi. «E chi era?» «Se ne parlate», aggiunse con tono severo, «non metterete più piede in questo luogo». «Padre, ho pensato che fosse la Madonna». «Sì, non vi siete ingannata. L'avete veduta anche voi?» «Sì, l'ho vista e l'ho parlato». «Ma voi ditemi, in che stato eravate quando vi credevo morto?» «Oh, ero contento di vedere mia madre». «Padre, fu per merito vostro se l'ho vista anch'io. Quando ritornerà, consacratemi a lei, perché lei mi consacri al suo divin figlio». Me lo promise e aggiunse, «voi guarirete». «Ma quando, padre?» «Un po' più tardi, non domandate di più». Poi, con tono ancor più dolce, soggiunse, «con la Santa Vergine e Santa Filomena ci intendiamo molto bene». È che io penso, carissimi, che non ci siano proprio parole, vero, per commentare questo episodio. Episodio che si presenta con tutti i crismi della verità, sia per l'attendibilità, l'affidabilità della persona che ce lo ha riferito, sia per l'avverarsi puntuale della profezia che annunciava la guarigione, sia perché ci presenta i tratti migliori del curato d'Ars, soprattutto il suo riserbo, il suo essere molto schivo, specie se si trattava di mettere in luce i favori celesti di cui era beneficiato. Comunque sia, forse il santo alludeva proprio a questa scena prodigiosa quando un giorno diceva alla baronessa di Belvei, venuta da Ars, se si conoscesse ciò che è accaduto in questo luogo, non si oserebbe più mettervi piede. E come fa giustamente notare il biografo, in questo racconto non dimentichiamo due particolari importanti. Primo, Don Vianney parla della Santa Vergine e Santa Filomena come se fosse abituato alle loro visite. Secondo, accetta di consacrare la Santa Vergine e la ragazza Stefanina, già facendo assegnamento con sicurezza su nuove visite della Regina del Cielo. Ma quando Stefanina vuol saperne qualcosa in più, egli taglia corto ed evita le domande indiscrete. Né, dobbiamo dire, carissimi, né si dimostrò più loquace con Don Toccanier, che come sapete rimase accanto a lui per ben 6 anni. «Si afferma che avete delle visioni», gli disse un giorno a bruciapelo. Risposta: «Sì, una volta, quando ero malato, ho visto al mio capezzale qualcuno vestito di bianco che mi parlava con amabilità, come un confessore». Beh, non sappiamo a cosa alludesse, ma come potete comprendere, qui non parla di visioni o rivelazioni, ma solo di un fatto che potrebbe succedere a chiunque in certo senso, nel senso che quando noi non stiamo bene e siamo particolarmente afflitti, ci par di vedere a volte il Signore accanto a noi, proprio quasi fisicamente, no? Anche se evidentemente è solo un'impressione, e di questo siamo sicuramente convinti. Ecco, di persone che mi hanno confidato di aver sentito proprio la presenza fisica del Signore che li consolava nel dolore, ne ho sentite molte. Comunque adesso facciamo un altro piccolo stacco, poi concluderemo la puntata di oggi. Beh, comunque adesso raccontiamo un altro fatto. Una certa Marianne Renard, che abitava con sua madre vicino alla canonica, ci assicura che Don Vianney ebbe visioni anche nei primi anni della sua vita pastorale ad Ars. All'inizio del pellegrinaggio, cioè nel 1828, dice Marianne Renard, venne ad Ars una persona che voleva confessarsi dal servo di Dio. Entrata nella chiesa di buon mattino, si diresse alla sacrestia, la cui porta era rimasta semiaperta, e vide una signora vestita di bianco che parlava col santo. Si fermò sorpresa, non osando entrare, finché Don Vianney non venne a chiamarla. «Perché non siete entrata subito?» Risposta: «Perché vi intrattenevate con una signora?» Il servo di Dio non rispose. E quando quella donna entrò in sacrestia, la signora era già scomparsa. E non avendo visto alcuno uscire, si convinse che il curato avesse avuto un'apparizione della Santa Vergine. Beh, ora, carissimi, passiamo subito a un altro episodio. Francesco Bourdin è tipo scrupoloso, scrupolosissimo, che noi abbiamo già descritto come un convertito per mezzo di Don Vianney. Dopo 7 confessioni consecutive doveva ben avere la coscienza pura, vero? Ma la mattina del giorno 8, mentre si preparava a comunicarsi, fu turbato dal dubbio di non aver ricordato di non aver ricevuto l'assoluzione, perché non se ne ricordava bene. E se non era stato assolto, doveva forse ritenersi in grazia di Dio? Per cui, invece di comunicarsi, si mise nella fila dei penitenti e con pazienza imperturbabile attese il suo turno fino alla sera. E quando il penitente che lo precedeva ebbe lasciato il confessionale della sacrestia, Francesco si inginocchiò. Ma qui attenti, che faceva Don Vianney? Non era più seduto al suo posto, ma voltate le spalle alla porta parlava con una signora un po' più alta di lui, vestita di azzurro pallido e splendente di una bellezza meravigliosa. Il curato d'Ars non si era accorto del penitente che era entrato, ma la signora gli aveva rivolto uno sguardo benevolo. Ebbene, il misterioso colloquio durò circa mezz'ora, senza che si udisse alcuna parola. Frattanto Francesco, che rimaneva inginocchiato col capo nascosto tra le mani, aveva l'impressione che gli venisse tolto dal cuore un peso enorme, un peso immenso. Improvvisamente Don Vianney prese il penitente per un braccio e questi, alzatosi, cercò invano la visione. Ma non la vide più, notate. Era scomparsa senza che si fosse aperta la porta. Il santo allora, invece di sedersi per ascoltare la confessione, congedò il penitente con queste parole: «Andate in pace, amico mio, voi siete certamente in grazia di Dio». Molto bello. Altri racconti simili erano diventati dominio pubblico ad Ars, fra i pellegrini, dando la persuasione che il curato avesse delle visioni e soprattutto visioni della regina del cielo. E fin qui abbiamo visto come egli abbia fatto allusione alle visite della Santa Vergine, ma in altre occasioni parlò anche dell'apparizione di Santa Filomena. Per esempio nel maggio del 59, in un colloquio familiare con la baronessa di Belvei, il santo, rievocando passati avvenimenti, disse: «Desideravo conoscere la volontà di Dio circa la nuova Chiesa. Ero incerto se dovevo sacrificare l'opera delle missioni parrocchiali per impiegare ogni riserva in questa costruzione. Mi rivolsi a Santa Filomena, che mi apparve bella e splendente in una nube bianca. Alludendo all'opera delle missioni, mi disse: «Non vi è nulla di più prezioso della salvezza delle anime». E la baronessa di Belvei aggiunge che il curato, mentre parlava, rimaneva in piedi con gli occhi volti al cielo, estasiato a quel ricordo che sembrava ancora dominarlo. E qui attenti, carissimi, le persone che lo circondavano erano già persuase che dormisse molto poco. Ed egli stesso aveva confermato questa convinzione quando aveva parlato dell'apparizione del demonio, e per cui rimaneva il dubbio che quasi a compenso di quelle sgradite sorprese, durante la notte avesse anche altre visite. Ma non si sapeva in che modo strappargliene il segreto. E dobbiamo dire che su questo punto non ottenne molte spiegazioni neppure Don Toccanier, Attenti, il 22 novembre 56, con apparente indifferenza osò chiedergli: «Signor curato, voi pregate anche di notte?» Risposta: «Sì, amico mio. Quando mi sveglio, ora sono vecchio e non mi rimane molto da vivere. Devo approfittare perciò di tutti i momenti». Allora Don Toccanier butta là una frase: «Voi vi coricate sul pavimento, per forza che non dormite». Risposta: «Oh, non sempre sul pavimento». E si fermò in un imbarazzante silenzio, ritenendo di aver parlato troppo. Ruppe il silenzio ancora Don Toccanier: «Signor curato, per tutte queste missioni che fondate, Dio dimostra chiaramente che vi vuole qui». Risposta: «Oh, amico mio, c'è ben altra cosa». E si chiusero le confidenze perché Don Vianney abilmente cambiò discorso. Ultimo episodio per oggi. Un seminarista, morto giovane, vide una notte nel cielo di Ars una luce misteriosa. E molti si chiedono: non era forse un riflesso delle visioni consolanti di Don Vianney? Anche il giovane Don Tissot, che passava le vacanze presso il maestro Pertinand, una volta, verso la mezzanotte, stando appoggiato a una finestra del primo piano, vide una grande luce sopra la canonica e concluse che là avveniva qualcosa di straordinario. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.